Palla ovale. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Anita Riotti in redazione, Giacomo Spunti in regia e l'altro Giacomo Bagnasco oggi per l'occasione finalmente qui vicino a me. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui. Tra l'altro, dunque, weekend come dicevo nel giornale radio sportivamente imperdibile, no? Ripeto, Massa in pole position, notizia più fresca e più recente nel Gran Premio di domani di Singapore in notturna, accanto a lui Hamilton, quindi una prima fila. Da testa a testa per il titolo mondiale, Raikkonen e Kubica partiranno dalla seconda fila, ma poi ne parliamo, sentiremo Mourinho che oggi ha detto di tutto, soprattutto riguardo a chi lo ha accusato di mancanza di rispetto per non essersi presentato in conferenza stampa l'altra sera. C'è il derby domani sera, c'è il mondiale di ciclismo di Varese, c'è Valentino Rossi domani mattina, insomma c'è veramente di tutto in questo weekend. C'è anche e soprattutto il rugby. Giacomo, oggi più che mai la sigla con l'H degli All Blacks per il nostro programma è opportuna, perché c'è un All Black che arriva a Rovigo. Poi diamo anche i parziali sui campi di Serie A. Però vorrei partire da Crib, che arriva a Rovigo ed è una grande notizia. Eh sì, vediamo arrivare Ron Crib, che ha 32 anni, che ha avuto qualche acciacco, però è un grande giocatore e lo ricordiamo tutti, e lo ha ricordato molto bene anche Simone Battaggia oggi sulla Gazzetta dello Sport, per quella partita che si giocò il 25 novembre del 2000 a Genova. Vinsero gli All Blacks nettamente 56-19, e fa piacere che nell'altro emisfero, dall'altro emisfero, con la mentalità completamente diversa da quella degli italiani, Crib quel giorno abbia saputo apprezzare una cosa, abbia saputo apprezzare prima un inno nazionale che era cantato da tutto il pubblico in uno stadio che rimbombava, di gente a Genova che abitava nei pressi dello stadio, ha aperto le finestre per sentire questa musica, questo suono che arrivava da Marassi. Questa onda d'urto. Esatto, che usciva da Luigi Ferraris. Ma poi Crib ricorda anche come tutti hanno messo il silenziatore per seguire con il massimo rispetto la H, e dice: uno dei ricordi più belli della mia carriera. Quindi benvenuto a un fuoriclasse e benvenuti in prospettiva agli All Blacks, che ricordiamo giocheranno in Italia si spera l'anno prossimo a San Siro. Sì, poi tra l'altro Crib, insomma, erano tanti anni che non c'era uno straniero di prima fascia, uno straniero così importante nel rugby italiano, chissà che non possa essere primo di una lista. Questo era considerato comunque uno dei numeri 8, o forse il numero 8 più forte del mondo, poi un po' caduto in disgrazia, no Giacomo? Sì, infatti il problema è questo: in Italia in questo momento arrivano giocatori di gran nome che magari sono un po' nella fase discendente della carriera. Anche per Crib si tratterà di vedere a che punto è. D'altronde adesso in Italia c'è Fraser Waters che ha giocato per l'Inghilterra, gioca nel Benetton, c'è Evans che gioca il pilone gallese che gioca nel Calvisano. Quindi questi giocatori, se arrivano e hanno la voglia, il carattere e naturalmente anche il livello tecnico, se non immutato, comunque rimasto accettabile, adeguato, possono veramente portare grande interesse. Comunque a Rovigo apprezzerà sicuramente l'atmosfera di una città ovale che lo amerà dal primo momento. Sì, ma comunque in questo momento del rugby italiano di club, guarda, arrivo a dirti che il nome è già qualcosa, il nome è già abbastanza, perché comunque abbiamo bisogno di personaggi e di giocatori che facciano anche da traino. Tra le notizie sempre di cronaca c'è quella invece di un grande nome del rugby italiano, come quello dell'Amatori Catania, che da oggi ufficialmente non parteciperà alla Serie A. Perché non può farlo. Sì, non partecipa alla Serie A, e siccome la Serie A di fatto è suddivisa in due categorie, A1 e A2, perde, fa due salti indietro. L'Amatori Catania, che fino all'anno scorso era addirittura nel Super 10, retrocede e poteva disputare la A1, rinuncia anche alla A2, riparte dalla Serie B. Quindi c'è il Colleferro che sale in A2, c'è il Livorno che sale in A1. E Catania probabilmente per diversi anni ha fatto anche il passo più lungo della gamba e a questo punto, venendo meno la vetrina del Super 10, i nodi sono venuti al pettine. Dispiace, ma sicuramente questa squadra potrà riprendersi. E in provincia di Catania, a questo punto, la squadra più importante diventa, come d'incanto, il San Gregorio. Ti ricordi che l'anno scorso avevamo intervistato Bimbo Arancio, ultra quarantenne, ex azzurro, allenatore e giocatore di questa formazione, che l'anno scorso, a sorpresa, ha battuto nei playoff l'Amatori Milano ed è arrivato in A2. Se vogliamo concludere il discorso, diciamo che comunque l'Amatori Milano in A ci arriva in una maniera un po' meno nobile, ecco, usiamo questa parola, avendo acquisito i diritti sportivi della Leonessa Brescia, quindi l'Amatori addirittura si trova in A1. E la Leonessa Brescia continua la sua attività a livello giovanile. Palla ovale. Ripeto, 800240024, questo è il numero verde, questi invece sono i numeri della giornata di campionato in divenire, partite ancora in corso con il Casinò di Venezia, che sta rendendo la vita difficilissima all'Overmark Parma, 9-9, Calvisano in vantaggio 23-10. Sul campo di una Capitolina in crisi, Futura Roma invece, l'altra metà di Roma, che sta vincendo 6-5 sul campo del Petrarca, e quindi abbiamo Gran Parma 13, Rovigo 16, Rovigo che appunto sta aspettando Crib. Ieri abbiamo visto anche un anticipo, Giacomo, anticipo televisivo un po' strano, un po' discutibile, forse del venerdì alle 19. Era anche una gran partita con Viadana Treviso, e Treviso che vince 20-14. Sì, abbiamo parlato della RAI che è tornata a trasmettere le partite del campionato. In effetti registriamo che si era partiti con un posticipo del sabato pomeriggio e tutte le altre partite al sabato. Poi c'è stato un anticipo al venerdì e un posticipo al sabato, e questa era una cosa soddisfacente, però adesso oggi al sabato non si trasmette nulla a quanto pare, e invece c'è stato solo l'anticipo del venerdì sera. Comunque una partita molto importante, si affrontavano le due seconde e il Benetton Treviso ha fatto un gran risultato, la voce grossa, sì, andando a vincere 20-14 a Viadana, un Viadana che in casa di solito è molto forte. L'anno scorso Viadana Treviso in stagione regolare finì 33-0, quindi qualcosa è cambiato in meglio. Senti, per Treviso. Giacomo, prima abbiamo parlato di Crib, no? Si diceva ai tempi, nel 2000-2001, si diceva il numero 8 più forte del mondo. Adesso noi abbiamo in linea un grande numero 8, sai, quello lì che è sulle vette, che prova un po' lui, i brividi a quelle altezze. Il capitano della nazionale italiana e dello Stade de France, Sergio Parisse. Ciao Sergio, grazie. Ciao, buongiorno a tutti, come va? A noi bene, ma a te benissimo, insomma, sei in lizza per il pallone ovale d'oro, no? Sì, dai, contento. Come Ronaldinho. Contento, sicuramente un bel riconoscimento, sì, il fatto di essere tra questi cinque giocatori già per me è un grosso riconoscimento, un bel traguardo personale, e penso che sia anche una cosa piacevole anche per tutto il rugby italiano, per tutti i tifosi italiani. Eh beh, anche perché lì non c'eravamo mai arrivati, cioè, sì, è la prima volta, quindi mi fa anche piacere di essere il primo, speriamo che ci siano altri tanti anche in futuro. Giacomo. Ma io a Sergio volevo chiedere una cosa, questa fascia di capitano, che è una fascia virtuale perché nel rugby non si vince, quanto ha contato? Sei sempre stato un giocatore importante in questa nazionale, però l'anno scorso sei stato il condottiero di questa nazionale. Qualcosa è scattato nel, diciamo, anche a livello di carattere? È una questione legata anche all'età, ricordiamo che hai compiuto da poco 25 anni e quindi c'è stata una maturazione. Senti che questo compito che ti è stato affidato da Mallet, ecco, di skipper della squadra, ti ha dato qualcosa in più? No, sì, sicuramente dal punto di vista caratteriale penso già anche che per l'età e anche per i test match che ho giocato fino adesso ho maturato abbastanza. Sicuramente anche il fatto di avere questa grossa responsabilità dentro la squadra e anche fuori dal campo mi ha fatto sentire ancora più responsabile, quindi ancora con un doppio con una doppia voglia di far bene, una doppia voglia di fare delle buone partite. Dopo, al di là della fascia di capitano, penso che anche se facendo parte della squadra della nazionale, penso che ogni giocatore dà sempre il massimo, però sicuramente questo sì, questa fascia a me mi ha dato ancora più di responsabilità e sicuramente ancora più voglia di dare tutto quando si gioca con la nazionale. Poi te l'hanno data anche allo Stade de France. Sì, allo Stade Français quest'anno siamo in due i capitani, c'è Pierre Rabadan, un'altra terza linea di io. Niente, sicuramente in una squadra come la nostra ci sono veramente tanti campioni, francesi, argentini, vabbè, siamo tre italiani e qualche giocatore anche sudafricano, straniero, penso che sia anche un bellissimo riconoscimento, sicuramente è anche un bel traguardo personale essere anche capitano dello Stade Français, però come ho detto prima, come non è cambiato il mio carattere o la mia forma di essere al momento di aver preso la fascia di capitano della nazionale, non cambia nemmeno qui allo Stade Français, però niente, mi fa piacere di avere questa responsabilità anche nel club e spero di sempre fare il meglio, dare il massimo. Senti Sergio, da capitano cosa chiedi alla stagione azzurra, alla stagione della nazionale italiana, alla luce del sei nazioni che abbiamo vissuto, il primo di Nick Mallet, di una vittoria in Argentina che rimane comunque storica quest'estate, adesso a cosa puntiamo realisticamente? Ah, sicuramente adesso nel mese di novembre abbiamo tre test match importanti in casa contro tre squadre che sono abbastanza forti, due squadre Australia e Argentina che sono al di sopra di noi nel ranking mondiale, due squadre che hanno fatto anche un buon mondiale, che sono due potenze mondiali, e dopo un'altra come le Pacific Islander, che è una squadra, una selezione tra i migliori giocatori fijiani di Tonga e delle Samoa, quindi sicuramente una squadra molto dura, molto fisica. Niente, il traguardo nostro è sempre di giocare il massimo, cercare ancora di ottenere dei buoni risultati. Sicuramente non sarà facile perché sono delle squadre difficili, però abbiamo dimostrato in passato che possiamo battere queste squadre, soprattutto l'Argentina. Abbiamo battuto quest'estate a casa loro e sarà una bella partita, penso una bella rivincita da parte loro, e per noi deve essere una conferma di poter ribattere questa squadra. E l'Australia sicuramente resta comunque, insieme alla Nuova Zelanda e il Sudafrica, una delle squadre più forti al mondo, e vabbè, penso che è un piacere per ogni giocatore, soprattutto per noi italiani, di poter confrontarsi contro questi giocatori australiani e perché no, magari fare una bella sorpresa, visto che un anno fa, se non mi ricordo male, abbiamo perso solo i 7 punti in casa contro l'Australia, e è stata una partita che anche con qualche colpo di fortuna potevamo portare a casa. Sì Sergio, sì, era la partita del 2006 effettivamente, e l'Italia non era forse mai andata così vicina, insomma, a questa possibilità, anche se aveva giocato una gran partita con l'Australia anche nel 94. Io vorrei parlare un po' di questa stagione, visto che è cominciata molto bene a livello di club per lo Stade Français, che ha vinto tutte le prime sei partite di campionato, e un po' della stagione scorsa, o meglio, diciamo che c'è questa votazione che riguarda il miglior giocatore dell'anno dell'International Rugby Board, l'esito verrà reso noto il 23 di novembre. Ci sono a competere con te due giocatori gallesi, Rian Jones e Shane Williams, sulla scia anche del Sei Nazioni vittorioso. C'è Mike Blair, mediano di mischia scozzese, e poi c'è Dan Carter, mediano d'apertura degli All Blacks, che hanno appena vinto il Tri Nations. Quattro europei e solo un rappresentante dell'emisfero sud. Questo te lo potevi aspettare, e come te lo spieghi? Sicuramente di già non mi aspettavo di essere tra i cinque io personalmente. È stata sicuramente una bella sorpresa. Cioè, penso il fatto che ci siano quest'anno quattro europei, penso che il livello che si è visto anche nelle Sei Nazioni è stato abbastanza buono. Il Galles ha due giocatori nominati per questo premio, perché penso abbia fatto un'eccellente Sei Nazioni, sia Rian Jones che Shane Williams, che ha fatto anche parecchie mete, hanno fatto un grandissimo Sei Nazioni. Dan Carter penso che resta comunque, ha già vinto questo premio nel 2005, penso che resti comunque uno dei migliori giocatori al mondo e non ci sono dubbi, quindi penso che la sua nominazione era un po' ovvia. Sì, magari le due sorprese, magari io personalmente quelle penso sono quelle mie, la mia presenza è quella di Mike Dare con la mediano inizio della Scozia, che sì, relativamente tra la squadra italiana e la squadra scozzese non c'è tanta differenza, anzi nel ranking siamo decimi e noni la Scozia, quindi penso che le partite, ogni partita Scozia-Italia è stata sempre una partita chiusa e nel risultato e anche nel gioco, quindi magari queste due nomination sono magari un po' la sorpresa, ma perché magari la Scozia e l'Italia non abbiamo fatto dei grandissimi risultati rispetto a Galles che ha vinto il Sei Nazioni e la Nuova Zelanda che ha vinto il Tri Nations. Sergio, per chiudere, campionato francese, diceva Giacomo, voi siete partiti fortissimo, 6 vittorie su 6 per lo Stade Français, però Dan Carter, che a testimonianza di un campionato che è di un livello spaziale, soprattutto se confrontato al nostro, Dan Carter che arriva a Perpignan, come leggi questo campionato? Voi 6 su 6, però un campionato che sarà comunque stellare fino alla fine. Sì, penso un campionato dove veramente ci sono anche tantissime sorprese, perché ci sono squadre anche come Bayonne, Montpellier che sono seconda e terza in classifica, squadre magari che hanno iniziato un pochettino fuori forma come Toulouse e Montferrand, che hanno perso qualche, e anche Biarritz, che hanno perso qualche partita. Sì, noi come Stade Français abbiamo fatto delle belle partite, soprattutto è stato un bel inizio di campionato, perché al di là delle vittorie penso che non è stato facile anche l'inizio, perché venivamo con un nuovo allenatore australiano e abbiamo giocato anche 4 partite delle 6 fuori casa, e qui in Francia giocare fuori casa è veramente dura, è difficile vincere, quindi niente, sicuramente una doppia soddisfazione, speriamo che le cose continuino così. E anche il fatto che ci siano tanti giocatori e tanti star del rugby mondiale come Dan Carter, che adesso è arrivato a Perpignan, significa che il rugby francese sta evolvendo, che ci sarà sicuramente in futuro penso tantissimi altri giocatori dell'emisfero sud che vengano a giocare in Francia, e per conseguenza penso che anche il livello del campionato si cresca ogni anno. Quest'anno già si vede di già, perché ci sono squadre che magari l'anno scorso lottavano per un ottavo, nono posto anche per la retrocessione, quest'anno stanno giocando tra i primi posti, quindi penso che sia un campionato molto, molto equilibrato. Giacomo, volevo un'ultima domanda per Sergio Parisse. No, volevo chiedergli quando arriverà questa Heineken Cup allo Stade Français, perché mi sembra che questo sia il punto un po' dolente, però sicuramente anche l'obiettivo numero uno, penso, per questo club a questo punto. Ecco, un club che si è affermato a livello nazionale, che arriva spesso vicino a conquistare la Champions League del rugby, ma non c'è ancora riuscito. Un po' come l'Inter. Sicuramente una competizione dove in questi ultimi 2 anni, 3 anni non abbiamo avuto dei buoni risultati, una competizione che sicuramente tutti i giocatori dello Stade Français vogliamo vincere, e quest'anno sarà sicuramente dura come tutti gli anni, però penso che tutta la squadra abbia voglia di far bene, perché penso che ogni giocatore voglia vincere, essere campione d'Europa, e sicuramente un titolo che manca a questo grande club, e quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono. Bocca al lupo Sergio, buon lavoro. Crepi, grazie, un abbraccio. Ciao, grazie ciao. Capitano, in bocca al lupo per lo Stade Français, anzi prima per la nazionale italiana, poi per lo Stade Français. È giusto, è una priorità che condivido. E per questo pallone d'oro ovale, cui insomma che è già un grandissimo risultato vederlo lì, e meritatissimo risultato vederlo lì insieme a Dan Carter, Shane Williams, Ryan Jones, Mike Blair a contendersi questo titolo. Grazie a Sergio Parisse. Palla ovale. Stiamo per salutare Giacomo Bagnasco, ma stiamo anche per veder finire le partite del Super 10 con l'Overmax che si è portato in vantaggio a Venezia, ora conduce 12-9 dopo che l'avevamo lasciata pochi minuti fa sul 9-5. Calvisano ha in mano la partita sulla Capitolina 28-13, quindi Futura Park 13 sul campo contro Petrarca Padova, sul campo di Petrarca Padova che ha 8 punti, quindi plus valore Gran Parma 13, Femici Z Rovigo 16. Qualche sorpresa c'è anche oggi, Giacomo? Eh sì, intanto il Casinò di Venezia si conferma squadra che in casa si fa valere, quest'anno ha molti giocatori di grande esperienza, i fratelli Dallan, Palmer, Pilat sono arrivati e se funzionerà l'amalgama con questi atleti sicuramente si prenderà delle soddisfazioni, però il Parma riesce a vincere, sia pure con un po' di difficoltà, se finisce così la partita rimane in testa ed è l'unica squadra che ha sempre vinto insieme con il Benetton Treviso. E la sorpresa, anche se ci dovremo abituare a questa Roma, a questa Roma Olimpico, futura Park, è appunto la vittoria della matricola a Padova, sempre che il Petrarca non riesca nel finale a riprendersi, certo, questo Petrarca che perde 42-0 a Parma e adesso perde in casa da una squadra neopromossa, nonostante questo nuovo allenatore No, scozzese. non grandissime sensazioni, No, insomma. no, no, no, effettivamente no. Senti, Giacomo, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Da rugbista, come valuti Mourinho che non si presenta in conferenza stampa, manda Beppe Baresi e oggi fa una conferenza stampa assolutamente show, come spesso capita, poi vi faremo anche sentire qualche cosa in cui dice Beretta, che l'ha chiamato Barnetta. Barnetta, chi è Barnetta? Natore delle cioè, Barnetta? Beretta, Barnetta. Vabbè, si è No, se aveva sbagliato con qualcosa, io l'arbitro. ho parlato con lui in campo e non mi ha detto niente, se poi ha avuto, io posso essere antipatico, se ha avuto paura a dirmi le cose, poi alla stampa ne ha dette delle altre, è meglio che si faccia curare. Ne ha avute pesanti anche per Ranieri che l'aveva criticato, ha detto mi parla questo di mancanza di rispetto. Io per 5 mesi ho studiato 4 ore al giorno in italiano proprio per presentarmi qui e poter parlare con i giornalisti, con i tifosi, con i giocatori. Insomma, questo è rispetto. Insomma, ne ha avute per tutti. Ha detto: io da quando faccio allenatore non è una carriera lunga, però 21 volte mi è capitato di mandare a parlare il vice allenatore al mio posto. 20 volte non è successo niente. Arrivo in Italia, la 21esima, scoppio un casino che la metà basta. Tu come valuti questo atteggiamento di Mourinho? Ma guarda, secondo me è un personaggio eccessivo. Spesso mi sembra sopra le righe, sicuramente è un tecnico in gamba, preparato, ha saputo anche mostrare sportività in certi momenti difficili, anche nelle sconfitte. Possono essere criticabili certe sue dichiarazioni. Se c'è una cosa che proprio non mi sentirei di criticare è il fatto che lui abbia mandato Beppe Baresi in conferenza stampa, anche perché io credo che Beppe Baresi sia, non voglio esagerare, non voglio dire un patrimonio del calcio italiano, però è un personaggio importante. Sì. Non ha, mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di Baresi, tanto per cominciare, il fatto di pensare che così la stampa sia stata sottovalutata o snobbata perché lui è arrivato a parlare di una partita. Probabilmente ci sono dei motivi anche legati all'audience. È chiaro che Mourinho che parla in TV a questo punto è il momento culminante di una trasmissione, Sì. penso a un dopo partita classico. Però, insomma, mi sembra comunque un personaggio che al di là del modo in cui dice le cose, magari il contenuto è più condivisibile dell'atteggiamento, ecco. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Poi vi do i finali del rugby. Intanto io saluto e ringrazio Mario Poltronieri che è in linea con noi. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. Al di là di Mourinho, vorrei parlare con te più di Massa e di Hamilton, perché sotto le stelle, chissà se ci saranno, ci saranno invece dei nuvoloni domani, all'ora della corsa, però sotto le stelle Massa e Hamilton, uno accanto all'altro per giocarsi il titolo mondiale a Singapore. Sì, con diciamo la giornata che è stata favorevole alla Ferrari per quello che si è visto. Non è tanto perché Massa ha fatto un giro eccezionale e ha rifilato addirittura 6 decimi abbondanti a Hamilton, che sicuramente avrà fatto qualche errore, però che nell'intervista, subito dopo la conclusione delle qualifiche, è sembrato piuttosto sconcertato rispetto all'atteggiamento solito di estrema fiducia e direi quasi di presunzione. Quindi la McLaren deve avere sicuramente qualche problema, anche se poco dopo Ron Dennis ha detto no, qualcosa non ha funzionato, però nella somma delle prime qualifiche, cioè la Q1, la Q2, abbiamo dimostrato di essere sempre veloci, fino a un certo punto, perché io qui ho la tabella e guardando vedo che Massa nella seconda qualifica ha fatto 1.44.014 contro 1.44.932 di Hamilton, quindi diciamo che Massa è andato particolarmente bene e che la Ferrari mi sembra più in palla di quello che potessimo pensare dopo le ultime situazioni. Raikkonen ha recuperato in extremis dopo aver sconcertato un po' tutti in questi ultimi tempi, quindi Kovalainen è piuttosto indietro, quindi sia per quello che riguarda il campionato piloti sia per quel che riguarda il campionato costruttori, la gara di domani si presenta, se non pioverà appunto, nettamente a favore della Ferrari, a meno che c'è la solita incognita della benzina, e cioè quanta benzina ha la Ferrari, quanta benzina ha la McLaren. Io credo che la McLaren possa avere qualcosa meno, ma sicuramente ha anche dei problemi, riusciranno a risolverli? Io credo che con questo Massa sarà un problema abbastanza difficile, parliamo anche del circuito, scenografia bellissima, circuito con dei limiti che i piloti hanno subito rilevato. Subito, immediatamente hanno detto circuito, ma lo stesso Trulli, circuito banale, cioè classico circuito cittadino privo di spunti di interesse, tante curve a 90 gradi, quindi dal punto di vista proprio tecnico è un circuito molto modesto. C'è questa variabile appunto delle luci artificiali che mai avevamo visto in Formula 1, come ti sembra l'idea? Beh, ti dirò, il titolare dell'azienda che l'ha realizzata, che è Valerio Maioli, è un nostro carissimo amico, diciamo, i giornalisti dei tempi che furono, nel senso che cominciò a frequentare la Formula 1 a dire direi 25 anni fa e ci forniva a noi giornalisti, allora non c'erano i sistemi di comunicazione di adesso, e le prime pagine o le pagine relative allo sport dei giornali in uscita quel giorno, quindi la mattina arrivavamo al circuito e leggevamo già i giornali italiani, il che è una cosa interessante. Da allora ha continuato, ha già fatto l'impianto al Qatar che per le moto è andato benissimo, quindi secondo me ha fatto un eccellente lavoro. Naturalmente bisogna adattarsi, ma comunque i problemi maggiori che mi pare sono sicuramente l'ingresso e l'uscita della linea dei box, quei cordoli e quegli avvallamenti che fanno saltellare e che possono portare anche ad uscire in strada. Sotto questo punto di vista poi gli spazi di fuga sono pochissimi e infatti abbiamo visto che povera Fisichella addirittura non è riuscito a fare il tempo perché è uscito due volte. Ci sono stati parecchi test a coda, c'è stata questo non c'entra con il circuito, ma la rottura di Alonso che stava facendo un ottimo tempo, magari con la vettura molto scarica. Sì. Insomma, diciamo che è un circuito che qualche perplessità lo lascia, non dimentichiamoci che per sgomberare una vettura la prima uscita ieri ci hanno messo più di 10 minuti con il trattore. Certo. Quindi questo mi fa pensare che quando mettiamo tutte le macchine in pista i problemi dei possibili incidenti della safety car o che so io non sono poi così lontani come ipotesi. C'è un vantaggio nel senso che il circuito di più di 5 km distribuisce le macchine in modo che le situazioni di sorpasso difficile diventano qualcosa meno, ma nell'ipotesi che realmente i due grandi protagonisti, quelli separati da un punto a favore di Massa, che ha anche la pole position, e Hamilton, e sarà una gara decisamente interessante se non hanno fatto qualche cosa di speciale alla McLaren. Io vedo la Ferrari leggermente favorita. Mario, domani avremo tanto tempo per parlare di motori, perché domani mattina alle 7 c'è appunto Valentino Rossi, alle 14 ora italiana, 20 a Singapore, quindi l'area assolutamente europeo, c'è questa corsa cruciale per il mondiale e quindi l'appuntamento con te è fatalmente a domani pomeriggio. È cruciale anche per Valentino comunque domani, perché se riesce a fare il terzo ha conquistato anche l'ottavo titolo mondiale, di cui il sesto nella maggior cilindrata. È solo questione di numeri e di tempo. Sarebbe bello, io credo, soprattutto per Valentino Rossi, vincerlo in casa della Honda. Sentiamo domani, Mario, vediamo come va. A domani. Grazie a Mario Poltronieri. palla ovale. Anche se adesso stiamo divagando, è sempre palla ovale, dunque vi do i finali dai campi del Super 10 prima di parlare d'altro. Casinò di Venezia 9, Overmark Parma 15, quindi Calvisano che vince 28-20 sul campo dell'Almaviva Capitolina. Non abbiamo portato benissimo al Futura Park Roma perché il Petrarca Padova nel finale ha ribaltato tutto e adesso ha vinto 15-13, quindi plusvalore Gran Parma 20, Femici Z Rovigo 16, in attesa Rovigo dell'ex All Black Crib, come dicevamo prima, giocata ieri, Treviso che vince 20-14 a Viadana. C'è Franco in linea, ascoltatore da Milano, ma prima sentiamo insieme che cosa ha detto oggi, una delle cose che ha detto oggi José Mourinho in conferenza stampa. Vedo tutti preoccupati con le piccole cose che nello spettacolo calcio significa assolutamente niente. Non vedo nessuno preoccupato per il calcio italiano essere un prodotto molto piccolino fuori d'Italia, un prodotto che si paragona con il prodotto La Liga o con il prodotto Premier League. È un prodotto che è impossibile paragonare in questo momento. Io ho finito una partita contro Lecce in quello che l'avversario ha giocato con 3 portieri e 8 difensori. E dopo la partita tutti sono preoccupati perché una persona come Giuseppe Baresi è stato nella stampa. Ma pensavo che in Italia avesse più passione per il calcio e meno passione per tutto intorno al calcio. Questa è una delle cose dette da José Mourinho. Franco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Intanto diciamo che paradossalmente non vorrei che si arrivasse a parlare più di Mourinho che del calcio stesso, ecco. Esatto. Questa è un po' una degenerazione che... Allora, io inquadro il fenomeno Mourinho in una mia personalissima teoria della degenerazione di tutto un po' quello che ci compete, no? Che ci riguarda. Tutto è cominciato 30 anni fa, quando c'è stato il primo processo del lunedì. Sì. Una volta la gente si interessava della partita, poi tornava a casa e non aveva niente. Al massimo quelli più intellettuali leggevano, non so, Gianni Brera sul giornale, uh-huh. Ma era veramente una minoranza. Mm. E quindi Mourinho, diciamo, con questo suo parlare a viso aperto, al di sopra delle righe, è come, non so, è come un nudista che entra in un convento di suore, cioè nel calcio italiano, perché fino all'altro ieri siamo sempre stati abituati a delle conferenze stampa degli allenatori che sembravano delle tribune politiche dei segretari della DC, tipo Ronaldo Forlani. Sì. Cioè non hanno mai detto niente di rilevante, anche perché il loro lavoro è quello di fare gli allenatori. Sì. E quindi non ci sono stati dei grandi intellettuali, delle grandi personalità. Questo Mourinho ha una certa cultura, una certa managerialità, anche quest'ultima frase che lei ha fatto ascoltare, cioè, dà un po' lo spessore del personaggio, no? Mm-hmm. Cioè, paragoniamolo con gli altri allenatori sulla piazza. Quindi, come diceva il suo ospite prima, il modo può dare un po' fastidio perché può sembrare un montato, un pallone gonfiato, ma in realtà bisogna capire quello che c'è dietro. Guardi, secondo me è una persona che, come dicono in molti, compreso Ancelotti, ha una capacità mediatica straordinaria. Ho avuto modo di dibattere con gli ascoltatori su questo punto in passato, torneremo a farlo. Capacità mediatica che è un dono, ed è la capacità di farsi ascoltare quando si parla, di attirare e catturare l'attenzione, e Mourinho ce l'ha, è un dono di natura, lo ripeto. E poi lei ha fatto degli esempi abbastanza calzanti, ecco, dopo che siamo abituati a sentire frasi fatte e commenti con lo stampino, arriva questo e dice altre cose in altra maniera certe volte discutibile, certe volte criticabile, certe volte un po' spocchiosa, però senz'altro cose molto interessanti. Tra l'altro lei ha aperto il suo intervento dicendo un po' la cosa che ha detto Mourinho, cioè... mi sorprende il calcio italiano in cui il contorno conta più del gioco. È quello che ha detto lui, però lei ha sottolineato come adesso per paradosso si finisce per parlare più di Mourinho che non della partita. Sì. Se posso dire anche un'altra breve considerazione, sì, è che nel mondo del calcio poi in passato tutti sapevano certi fenomeni peculiari del nostro calcio, come, non so, doping, sì, nandroloni vari, passaporti, bilanci fa, eccetera, e nessuno ha mai detto niente, cioè ha dovuto venire fuori delle inchieste successive, sì, no? Quindi Non vorrei che Mourinho fosse un po' troppo avanti, ecco, per noi, perché noi siamo abituati a una certa omertosità, purtroppo, anche nell'ambiente del calcio. Lui invece è uno che ha il viziaccio di dire esattamente quello che pensa, e questo ci spaventa, e spaventa molti, io ma credo. Ma gliela faranno pagare come a Zeman, secondo me. Ah, può essere, può appena, essere. Può appena essere. Sbaglierà, può essere, può essere, può essere, può essere, però ha questo viziaccio di dire esattamente quello che pensa e di dirlo in faccia, guardate un po'. Io ringrazio Franco, saluto subito al volo Pier Augusto Stagi perché abbiamo 3 minuti per descrivere la vigilia del Mondiale di Ciclismo di Varese domani. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, come tutte le vigilie, almeno come le ultime vigilie dei mondiali, da Salisburgo a Stoccarda, come ti ricorderai, erano vigilie molto turbolente. Nel ciclismo non c'è pace da alcuni anni, ahimè, e devo dire che anche questa sera, diciamo quasi in presa diretta, che non c'è pace neanche. Non sapevo bene però per quale ragione, sappiamo solo che questa notte c'è stato un intervento da parte dei NAS di Milano, del Comando Tutela della Salute, che sono giunti all'hotel Gonzaga di Cantello, di Gaggiolo di Cantello, dove era alloggiata la nazionale lussemburghese, quella dei fratelli Gilek, per intenderci, sì. Andy e Frank, e sono arrivati alle 20:33, sono andati via alle 4:30 della mattina. Non sappiamo ancora i risultati di questa perquisizione, tutto ciò rientra all'interno di sospetti o qualcosa di più di sospetto di Frank Gilek, che sarebbe accusato, comunque avrebbe il peso di un coinvolgimento nella famigerata ormai Operazione Puerto, sì, di Efemiano Fuentes. E di pochi minuti fa invece la notizia è che alle ore 19 lascerà il Ritiro Azzurro Paolo Bettini per raggiungerci qui in sala stampa al Mapei Cycling Stadium per una conferenza stampa. Non sappiamo per quale ragione, non sappiamo cosa verrà a comunicare Paolo Bettini, se un addio, se una minaccia di querela, perché in questi giorni, in queste ore, c'è stato anche, non so se gli ascoltatori di Radio 24 l'hanno seguita, l'hanno letto, comunque hanno avuto l'eco di accuse da parte di Ivano Fanini, che ha parlato più e più volte di campioni del mondo dopati, di mondiali dopati, del ciclismo che non riesce a uscire da questa piaga. Quindi conferenza stampa fuori programma. Alcuni ipotizzano che Paolo Bettini, scocciato, potrebbe anche comunicare una sua querela a questo dirigente ciclistico toscano. Sì. Non sappiamo, sappiamo solo che questa è l'ennesima vigilia turbolente, alle ore 19 qua in sala stampa ci sarà una conferenza stampa del campione del mondo in carica. E più tardi sapremo che cosa Pier Augusto Stagi ci racconterà, cosa dice Bettini. Io ringrazio Pier Augusto, che ritroveremo come Mario Poltronero ovviamente domani in un pomeriggio sportivo da vivere con le cinture di sicurezza allacciate, a partire dalla mattina con Valentino Rossi, vi ricordo, alle 7 che corre per il Mondiale. Faccio in tempo però a dare i risultati di Serie B al volo, non faccio in tempo? Beh, Sassuolo ha vinto ancora 2-1 a Rimini, e l'Albino Leffe fa 0-0 a Piacenza in classifica. Albino Leffe, Grosseto 13, Mantova 12, Salernitana 11, Sassuolo ed Empoli e Triestina 10. Vi do solo questi spunti, ma domani torniamo a parlarne. Grazie ad Anita Riotti per il lavoro in redazione, Giacomo Spunti in regia. A domani.